Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Questo maledetto affare non è mica facile da aggiustare. Dannazione, non riesco a sintonizzarlo. E poi, ma che cos'è questa roba che si è sciolta in tasca? Cioccolato? Ma come mai? Andò proprio così. Percy Spencer, ingegnere, in un giorno di febbraio del 1945 stava aggiustando un radar e in particolare un congegno che emetteva microonde. Aveva un pezzo di cioccolato in tasca che si sciolse. Spencer lasciò stare i radar e costruì il primo forno a microonde. Questo scoprire per caso mentre si fanno altre cose si chiama serendipity, da un'antica fiaba persiana, i tre principi di Serendip, i quali appunto cercavano qualcosa e ne trovavano un'altra. Queste considerazioni ci portano a dire che molte importanti tecnologie sono diventate tecnologie per tutti per cause imprevedibili. E i nuovi forni a microonde? Si pensa a sistemi che riconosceranno gli alimenti e ci diranno con quali tempi e potenze è meglio cuocerli. Se volete scriverci, progress@radio24.it. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.